Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo anche e soprattutto nella seconda ora di benzina, perché la polemica sta montando e anche non poco sui prezzi praticati ai distributori. Non è solo la polemica sulle mancate segnalazioni degli impianti, dei prezzi nei vari impianti, però in realtà i Codecons hanno denunciato che la benzina è volata sopra i 2 euro al litro a Milano e hanno fotografato le varie pompe di benzina su questo. Ora la maglia nera spetta appunto a un distributore di Milano dove un litro di benzina sfonderebbe quota 2 euro, venduto a 2,009 euro al litro, prezzo più elevato a Rovereto. Per il gasolio invece a 1,907 euro. Tra l'altro l'iniziativa di Codecons ha varcato anche l'Italia perché ha invitato i vari automobilisti a fotografare i listini dei carburanti degli altri paesi e da verde costa per esempio in Spagna e in Austria mediamente 1,40 euro al litro e 1,30 euro il gasolio. Poi c'è il record positivo di Andorra, ma chi se ne frega, 1,298 euro. Questo fa seguito alla polemica sulla cosiddetta beffa dei cartelli sulla benzina, cioè, molte volte in autostrada sono spenti, sono incompleti, quelli che sarebbero serviti agli automobilisti a mettere in concorrenza i vari distributori guardando dove la benzina o il gasolio costa meno. Addirittura appunto tra Milano a Brescia se ne incontra uno solo in 100 chilometri, un pannello appunto in grado di dare i vari prezzi dei carburanti. Di questo parleremo nella seconda ora del programma. Parleremo anche della vicina Banca Marche, perché nel fine settimana la Repubblica di Ancona ha aperto un fascicolo di indagine su Banca Marche che ha accumulato perdite per circa 800 milioni di euro in un anno. E l'attuale dirigente di Banca Marche, che dallo scorso 30 agosto, tra l'altro ieri, è stata messa in gestione provvisoria dalla Banca d'Italia, aveva presentato alla dirigenza di Banca Marche 2 esposti della magistratura su posizioni dubbie di 2 clienti. In realtà è tutta la situazione contabile a interessare sia la magistratura e quindi le fiamme gialle che anche la Banca d'Italia. Ripeto, rettifica dei crediti per 450 milioni e perdita per 230 milioni solo nei primi 6 mesi dell'anno. Vi aggiorneremo anche sulla vicenda Fiat e adesso lo faremo nella notizia in breve, e poi anche per quello che riguarda, sempre nella seconda ora del programma, i dati sulle immatricolazioni di auto oggi. 349-238-6666 per i vostri sms e poi come sempre la pagina di Focus Economia su Facebook. E partiamo dalla borsa, oggi positiva Milano in assenza di Wall Street infatti è chiusa per il Labor Day, però bene Milano, bene Parigi e anche Francoforte. Il rialzo è praticamente identico nelle principali borse, l'1,6% a Milano, l'1,6% a Londra in questo momento, l'1,6% a Parigi e l'1,6% a Francoforte. Ci rigiochiamo. Da noi particolarmente bene la Popolare Emilia Romagna più 4,70% e poi Telecom Italia più 4,15% nel giorno in cui è arrivata la conferma dell'operazione su Verizon che porterà nelle casse di Vodafone qualcosa come 130 miliardi di euro. E il gioco, o l'interrogativo, lo spiegavamo la settimana scorsa, è cosa se ne farà Vodafone di questi 130 miliardi, andrà a fare shopping, comprerà Team Brasil o quant'altro, per cui insomma un concorrente grosso, importante, che ha riempito la cassa, e i giochi si fanno anche su Telecom Italia, chiaramente più 4,15%, dicevo, anche perché il principale gruppo di telefonia in Europa a non essere cresciuto nei primi sei mesi dell'anno anche in borsa. Buzzi Unicem più 4,5%, ST Microelectronics più 3,5%, Intesa San Paolo più 3,30%, Tods più 2,70% come Diasorin e Unicredit, e anche Salvatore Ferragamo e Atlantia. Chi va male oggi? Bah, sostanzialmente solo Saipem, meno 1%, Autogrill debole, meno 0,17%, Euro quota 1,31,90. Per quello che riguarda il mercato, visto che poi ne parleremo delle commodities, ma in questo caso oro e petrolio, allora l'oro è in ribasso a $1,373 l'oncia. Questo anche in coincidenza con le maggiori incertezze, chiamiamole così, prudenze da parte della Casa Bianca sull'attacco alla Siria. Anche il petrolio ha leggermente ritracciato, è a $107 al barile, meno 1%, ma ripeto, secondo i dati ufficiali la verde oggi ha superato 1,888 euro al litro, e il diesel 1,770 euro. Nei distributori Eni, ma anche IP, Equete, Total Erg. Quarto giro di aumenti per i prezzi da quando è partito così l'effetto Siria. A me sembra un po' tanto per quello che poi è stato l'effetto Siria sui mercati del petrolio, però vabbè. Però il punto vero è che i consumatori denunciano che in realtà il prezzo non sia 1,88, 1,77, ma sia ampiamente sopra i 2 euro in vari distributori della penisola. Spostiamoci alla Cina, dove il governo ha rivisto a ribasso la crescita per il 2012, più 7,7%, significa, ripeto ogni volta, per una crescita che per noi sarebbe da miracolo, in realtà in Cina è la crescita più bassa dal 99, per cui quest'anno dovrebbe fare un altro più 7,7% nel 2013. L'OCSE fa sapere che in Europa si sta stabilizzando una modesta ripresa nella seconda metà del 2013, faccio notare che già ci siamo. Tra i problemi che evidenzia l'OCSE, il sistema bancario dell'area euro, lo stallo degli investimenti, la disoccupazione. Grazie, siamo d'accordo. La Grecia. Allora, secondo il ministro delle finanze tedesco von Schäuble, un falco del governo Merkel, attenzione, la Germania è a ridosso delle elezioni. Comunque, ha detto Schäuble che nel programma di salvataggio per la Grecia attualmente in corso ci sarebbe, o ci potrebbe essere, un buco di almeno 4 miliardi di euro entro la fine del 2014. E lo ha detto in una seduta straordinaria della Commissione Bilancio del Bundestag, che è il Parlamento tedesco. Nel frattempo, ha detto sempre sulla vicenda greca e sempre Schäuble di essere contrario su una ricapitalizzazione retroattiva per le banche greche attraverso il fondo salva stati. È una richiesta che arrivava da Atene. Non vedo la possibilità di una ricapitalizzazione bancaria retroattiva. E invece dalla Grecia arrivano i seguenti dati: per portare la disoccupazione, che viaggia al 30% in generale in Grecia e al 60% quella giovanile, ma dicevo, per riportarla sotto il 20% in Grecia ci vorrà, secondo l'Istituto del Lavoro greco, ci vorranno 10 anni e 20 anni perché la disoccupazione possa tornare ai livelli pre-crisi, pre-2008, il che vuol dire un'intera generazione. Praticamente, se avessero ragione i greci, nel 2028, nel 2029 tornerà la disoccupazione ai livelli pre-crisi, ma a quel punto forse non sarà neanche più nella memoria del paese quella disoccupazione lì. E poi Questo per dire cosa vuol dire anche la cura a cui è stata sottoposta la Grecia. L'anno prossimo il potere d'acquisto dei greci sarà pari alla metà esatta di quello che era prima dello scoppio della crisi. È come se in Italia il nostro potere d'acquisto l'anno prossimo fosse il 50% in meno di quello che avevamo nel 2008. Immaginate cosa capiterebbe. Con stipendi che sono diminuiti complessivamente di 41 miliardi di euro. Negli ultimi 3 anni la domanda interna, quindi i consumi greci, sono tornati agli stessi livelli del 1999. Tant'è che ci sono oltre 1 milione di persone in Grecia che, pur di non perdere il posto di lavoro, continuano a lavorare anche se non percepiscono lo stipendio. Se n'è accorto l'Ispettorato del Lavoro greco, che ha fatto un'indagine e ha reso noto di aver scoperto che nel settore privato in Grecia, su 1.800.000 dipendenti, questa è pazzesca, solo 700.000 ricevono lo stipendio, anche se ridotto, a fine mese. L'altro milione lavora senza avere ancora lo stipendio. Tutte queste notizie chiaramente sono anche in qualche modo propedeutiche a quello che sarà l'incontro il prossimo 16 settembre dei tecnici della Troica, quindi Fondo Monetario, Commissione Europea e Banca Centrale Europea, ad Atene. Il governo greco tenta di elaborare un piano per non essere costretto ad imporre nuovi e più dolorosi tagli, anche perché si innescherebbe ulteriormente una crisi a spirale. Faccio prenotare che il 16 settembre è praticamente la domenica prima il voto in Germania, che è il 22 settembre, e dubito che, diciamo, dalla Germania avverrà e arriverà una settimana prima delle elezioni una spinta a ammorbidire, diciamo, le regole imposte alla Grecia. E pensate che in Grecia ormai i supermercati vendono prodotti scaduti a prezzo scontato, anche a un terzo del valore originario. L'idea era già emersa lo scorso ottobre: prodotti non deperibili come olio, verdura in scatola o pasta, ma che hanno una data di scadenza, ma se uno anche li mangia una settimana dopo non cambia nulla, diciamola tutta. A chi non è successo di mangiare di far cucinare una pasta scaduta? Tutti nella vita, no? Boh, non lo so, però tranquilli su questo. E li stanno vendendo nei supermercati. Se il prodotto ha la data di scadenza giorno e mese, può essere venduto solo per una settimana oltre quella data. Se riporta invece solo il mese e l'anno, può restare negli scaffali per un mese in più. Se da consumarsi preferibilmente entro, può stare addirittura un anno. Quindi mi sembra un po' morbida come misura. E via così per tutto un insieme di prodotti. Il nuovo codice, perché è un regolamento, non è un'iniziativa di alcuni supermercati, è entrato in vigore lo scorso 22 agosto e la misura è stata presa in pieno accordo con l'Unione Europea. Ora, una riflessione la si potrebbe fare anche noi magari un giorno, perché in questo modo gli sprechi alimentari, su cui magari faremo anche una puntata, altissimi, ci sono organizzazioni che cercano di, appunto, raccogliere gli sprechi alimentari, cioè l'invenduto che i supermercati non possono poi più tenere sul bancone, anche se è ancora buono sostanzialmente, e lo danno in beneficenza. Ma insomma, gli sprechi alimentari sono una cifra enorme di quello che è il non venduto della grande distribuzione. Vedere che in accordo con l'Unione Europea in Grecia si possono vendere, con tutte queste regole, e prodotti non deperibili, olio, verdure in scatola, pasta, con anche se scaduti, è un modo anche non solo per venire incontro ai greci, ma anche per evitare alcuni sprechi, diciamolo tutto, dai. L'Italia, lo spread italiano è in discesa, ha toccato 244 punti, la scorsa settimana è arrivato fino a 260, adesso è ripiegato. Sì, ha ragione, se ha solo l'anno di scadenza può restare altri 3 mesi sullo scaffale. Mi riferisco ai prodotti greci: se ha il giorno, settimana e mese, può stare un'altra settimana; se ha mese e anno, può stare un altro mese; se il prodotto riporta solo l'anno di scadenza, può stare altri 3 mesi oltre l'anno. Così chiarisco nel caso qualcuno volesse utilizzare questa formula anche per l'Italia, secondo me avrebbe anche un certo successo, visto che costano fino al 70% in meno questi prodotti. Ma torniamo all'Italia, spread in discesa 244 punti e per quello che riguarda invece l'occupazione delle grandi imprese continua a calare, un dato rilevato oggi dall'Istat, meno 1,4%, mentre oggi il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, ospite a Radio 24 nel programma 9 in punto, ha detto che entro il prossimo mese ed entro la legge di stabilità il governo deve trovare 2 miliardi per la seconda rata dell'IMU, perché coperta è solo la sospensione della rata di maggio, quella di dicembre deve essere ancora coperta, 1 miliardo per l'IVA e un altro miliardo circa per la cassa integrazione, oltre che per il rifinanziamento delle missioni all'estero, nella speranza che non vi siano altre emergenze. E poi sull'IVA ha detto, insomma, bisogna fare di tutto per evitarne l'aumento. Tra un mese noi abbiamo la seconda rata dell'IMU, l'IVA, 500 milioni di euro la cassa integrazione guadagni, ma è solo una tranche, abbiamo detto che gli esodati sono solo una parte, e poi a metà ottobre c'è la legge di stabilità nella quale bisognerà fare finalmente le scelte per il 2014. Baretta, quanti soldi ci servono entro fine mese? Entro fine mese ci serve 1 miliardo per l'IVA, per evitare l'aumento dell'IVA. Ma io ci si riuscirà secondo lei? Bisogna far di tutto, perché l'effetto dell'aumento dell'IVA immediato avrebbe, diciamo, complicazioni, però non si può evitare di aumentarla per sempre. L'Europa ci chiede di spostare le tasse dal peso sulle persone alle cose, quindi semmai bisognerebbe ridurre l'imposizione fiscale sul lavoro e sull'impresa, e da questo punto di vista la deducibilità va assolutamente fatta. Poi ci servono, parlo di quelli di quest'anno, poi c'è la parte sul prossimo anno, ci servono questi altri 2 miliardi per coprire la seconda rata dell'IMU, e poi penso un altro miliardo tra cassa integrazione. Ricordo che ci sono anche le missioni all'estero che vanno finanziate, sperando che non si aggiunga altre emergenze internazionali, per ora già quelle sono 300-400 milioni, quindi è un pacchetto importante. Allora non si riesce ad affrontarlo sfogliando i petali uno alla volta, bisogna avere una visione generale e decidere politicamente le priorità. Eh sì, perché la somma fa 4 miliardi secchi secchi, no? 2 per la seconda rata dell'IMU, 1 per l'IVA e un altro per la cassa integrazione. Ha ragione Baretta nel ricordare che è l'Europa che chiede che la tassazione venga spostata dal prelievo, dall'IRPEF, diciamo, dal reddito all'IVA. Il timore in questo paese, lo dico subito, è, caro Baretta, che si aumenti l'IVA senza ridurre l'IRPEF e soprattutto il cuneo fiscale. Questo è il vero timore. Uno potrebbe anche fare un ragionamento su una riduzione dell'IRPEF per chi le tasse le paga veramente, e magari un aumento dell'IVA. Sì, se però c'è una vera riduzione del cuneo fiscale, con un vantaggio per le imprese oltre che per i dipendenti, e quindi complessivamente per rilanciare i consumi. Il timore è che invece si vada solo ad aumentare l'IVA. Vedo che sul tema dei prodotti scaduti vendibili al supermercato siete molto, ma molto più informati di me, e questa non è una novità, capita. Alcuni fanno notare che è una legge europea, in effetti citavo il fatto che la Grecia si sia mossa in accordo con Bruxelles, una direttiva europea, e se è riportato solo l'anno di scadenza si può vendere nei primi 3 mesi dell'anno successivo. Certo, questo l'avevo chiarito. Ma restiamo sull'IMU, perché in realtà oggi il sindaco di Bari e esponente di peso del PD, Michele Emiliano, ha detto, sempre alla D24, attenzione, l'IMU esiste ancora, verrà pagata regolarmente nelle seconde, terze e quarte abitazioni se non interverrà una nuova legge che introduca un tributo diverso. Resterà in questi casi perfettamente in vigore, tutto il resto sono giochini di marketing politico. Innanzitutto, se si legge il decreto, l'IMU esiste ancora, verrà pagata regolarmente sulle seconde, terze e quarte abitazioni. e se non interverrà una nuova legge che introduca un tributo diverso, rimane perfettamente in vigore. Il decreto all'articolo 1 sospende semplicemente, elimina il pagamento delle rate, ma non ha cancellato affatto l'imposta. Quindi ciò che ci dicono sui media è completamente diverso da ciò che è scritto nel decreto, quindi l'IMU esiste e se non si dovesse trovare un accordo sul nuovo tributo in Parlamento, e perché non credo che il nuovo tributo potrà essere introdotto per decreto legge d'urgenza, perché sarebbe inconcepibile per la Corte Costituzionale, ovviamente l'IMU rimarrà in vigore. Non credo che la service tax che metterà insieme, diciamo, la TARSU o la TARES, quindi le imposte sui rifiuti e l'IMU, non credo che poi questo importo di questa tassa sarà molto diverso da quello dell'IMU. Cioè, ci sta dicendo che non risparmieremo un euro. Sono giochini di marketing politico, punto e basta. Così appunto il sindaco di Bari, Vittorio Emiliano. Adesso le altre notizie, perché oggi è una giornata intensa, ma è densa soprattutto di piccole notizie. La CGA di Mestre stima che in 40 anni l'IVA, restiamo sul tema, sia aumentata 8 volte. Non c'è un paese in Europa che ha avuto aumenti dell'IVA di tale intensità e con tale progressione. E poi la vicenda che sta facendo discutere la Fiat, perché la Fiat un'ora fa ha detto che senza una legge sulla rappresentanza e l'esigibilità dei contratti è ineludibile come legge, ed è una condizione senza la quale la Fiat non potrà garantire la continuità del suo impegno industriale in Italia. La Fiat ha infatti comunicato oggi in una lettera alla FIOM che intende rispondere in maniera definitiva ad ogni ulteriore strumentale polemica in relazione all'applicazione della decisione della Suprema Corte. Insomma, il punto è questo: Fiat dice, e non è la prima volta, ciclicamente ci torna, che o c'è un intervento del legislatore, del Parlamento, sulla rappresentanza e sul rendere esigibili i contratti, oppure loro non garantiscono l'investimento industriale in Italia. Vedo molti messaggi anche su Banca Marca, abbiate un po' di pazienza, ne parliamo dopo i mercati. Invece, sempre in tema bancario, come ampiamente anticipato nei giorni scorsi, è Antonella Mansi, la nuova presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, dopo 2 ore e mezzo di discussioni e 3 sedute a vuoto, lo ha deciso all'unanimità la Deputazione Generale di Palazzo San Sidonio, 4ª riunione. Un nome conosciuto forse anche da chi ci ascolta, perché è stata presidente di Industriali Toscani, è vicepresidente di Confindustria, nome di garanzia, donna e giovane, quindi a noi fa solo che piacere, un nome di garanzia per ricomporre le varie correnti, diciamo, interne alla Fondazione Monte dei Paschi. È stata appunto, è anche dirigente dell'azienda chimica di famiglia Nuova Solmine SPA e appunto ha guidato in varie occasioni la rappresentanza confindustriale, ed è anche cavaliere del lavoro. In bocca al lupo, perché il compito non sarà di quelli facili. Sappiamo il rapporto Fondazione Monte dei Paschi di Siena con la banca, e devo dire che da quello che abbiamo letto, il fatto che la senesità non diventi più un elemento solo centrale, ma la buona gestione della banca è quello che rende forte il Monte dei Paschi di Siena, secondo me è già un cambio di passo rispetto a quello che è successo con le precedenti gestioni. Mi riferisco alla fondazione, in questo caso del Monte dei Paschi, non alla banca in sé. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. La borsa ha chiuso più 1,60%, tutte uguali, 1,60 Milano, 1,60 Francoforte, 1,60 Parigi, no, ecco, Londra più 1,43%. DJ 17:35 minuti. Allora, entriamo nel vivo dopo avervi raccontato le notizie principali di questa giornata in alcuni approfondimenti. Wall Street chiusa per il Labor Day, dicevamo, ma oggi di nuovo, forse più in Italia che in altri listini, al centro dell'attenzione, insomma, c'è questo bottino, forse non è il termine così elegante, ma insomma, quello che Colau incasserà dalla vendita del 45% della società che possedeva con Verizon, Verizon Wireless, attiva nel settore della telefonia mobile, la cede la sua quota a Verizon, in cambio ottiene 130 miliardi di dollari. E che ne farà con questi 130 miliardi di dollari? Se lo chiede la borsa, le borse ormai da 4 giorni, abbiamo visto cosa era successo anche nel fine settimana sui titoli telefonici, sarà una coincidenza, ma anche oggi Telecom Italia, la bella addormentata nel bosco per interi mesi, si è risvegliata, l'ha baciata il principe Vodafone, più 3,90%. Livia Zancaner, sei d'accordo? Sì, d'accordissimo. Col principe azzurro? Sì, assolutamente, è arrivato il principe Vodafone, tant'è che Telecom in 4 sedute ha guadagnato oltre il 16%, quindi diciamo che il titolo, appunto, come dicevi tu, si sta risvegliando. Ricordiamo anche che a settembre i soci riuniti in Telco, che controlla il 22,4% di Telecom, dovranno decidere il da farsi, cioè se rimanere in Telecom, rimanere in Telco oppure disdire il patto. E questo, insomma, è chiaro che sullo sfondo c'è una nuova, appunto, assetto, quello che potrebbe essere il nuovo assetto societario di Telecom Italia, però è ovvio che questo principe ha una bella dote, e sappiamo che i principi con le belle doti vanno per la maggiore, e c'è addirittura chi ipotizza anche oggi sul mercato Livia che l'obiettivo possa non essere solo Team Brasile eventualmente, ma addirittura una scalata vera e propria? Sì, gli operatori continuano a interrogarsi quindi sul modo in cui Vodafone utilizzerà la nuova liquidità. Secondo alcuni proprio l'interesse potrebbe essere non solo per le attività brasiliane, quindi in Brasile, ma per gli asset italiani o comunque per tutte le attività in Europa. E gli operatori individuano anche un altro potenziale interessato, diciamo così, alle attività di Telecom, American Mobile, che potrebbe appunto entrare nel risico delle attività in Europa e in Italia. E comunque le voci, quindi le indiscrezioni, gli studi, gli analisti continuano ad infiammare il titolo Telecom, che ora appunto è tratta a 0,5 euro. Sì. Bene, anche altri titoli oggi, al di là delle banche di cui parliamo spesso, comunque la Popolare Emilia Romagna fa più 4,70%, vorrei Intesa San Paolo più 3,40%, Unicredit più 2,70%, Banco Popolare più 2,20%, Mediobanca pure più 2,20%, Fondiare 6 più 2,20%. Oggi però si è risvegliato, devo dire che questo non era addormentato, anzi è stato il settore più forte 2012-2013, il lusso, Ferragamo più 2,70%, Tod's più 2,5% e anche Brunello Cucinelli è andato bene se ho ben visto. Che succede sul lusso? Sì, Brunello Cucinelli appunto ha guadagnato il 2,5%, sono arrivati giudizi positivi dopo i conti pubblicati da Ferragamo la scorsa settimana. Ricordiamo che il gruppo ha mostrato ricavi in crescita dell'11%, un utile rettificato in salita del 55%, dei numeri che hanno riacceso quindi l'interesse sul settore, un settore che comunque, ricordiamo, oggi è andato bene in tutta Europa, quindi diciamo che dopo un periodo di pausa probabilmente torna l'interesse e il mercato continua a scommettere su un settore che diciamo così non conosce crisi. Mentre mi aspettavo una reazione un po' diversa, ma chiaramente non vuol dire nulla la mia attesa su Autogrill. Perché lo dico? Perché venerdì scorso Autogrill ha depositato la domanda di quotazione in borsa della società attiva nel business degli aeroporti. Autogrill è fortissima, noi la conosciamo solo per, o quasi principalmente per gli autogrill da rete autostradale, ma in realtà è fortissima in America, il 50% del fatturato lo fa in dollari, ed è fortissima leader nei servizi di ristorazione appunto dentro gli aeroporti americani, oltre che adesso anche in qualche aeroporto italiano. Perché così tanta incertezza su Autogrill, che alla fine ha chiuso più 0,17, più 0,1? Ma diciamo che il titolo comunque ha vissuto un agosto piuttosto positivo, la performance del mese di agosto è positiva, proprio venerdì ha iniziato in realtà a scendere, oggi ha chiuso sulla parità, diciamo che quindi probabilmente il mercato si interroga su questa suddivisione delle attività. Ricordiamo infatti che da ottobre o comunque nei prossimi mesi in borsa saranno quotate due società al posto quindi di Autogrill, cioè una società attiva nella ristorazione, che è quella appunto, come dicevi, che conosciamo meglio, e l'altra che è World Duty Free, cioè che è la società attiva nel settore aeroportuale, un po' come hanno fatto Fiat e Fiat Industrial, quindi credo che il mercato si stia interrogando proprio sull'operazione. Si fa una domanda e si dà una risposta, per dirla a Marzullo. Vabbè, questo per quello che riguarda la quotazione o la doppia quotazione che avrà Autogrill. C'è un ascoltatore particolarmente preciso che mi dice: guardi che l'ultimo prezzo di chiusura delle borse non è tutto a più 1,60, lo so, era l'ultimo dato di quotazione, adesso abbiamo la chiusura definitiva, è più 1,80 a Parigi, più 1,74, anzi più 1,84 a Parigi, più 1,74 a Francoforte, più 1,40 Londra, più 1,84 Milano. Posso però dire che hanno chiuso praticamente simili, questo me lo passi l'ascoltatore, grazie invece a questo suggerimento. Però vorrei andare ancora su due settori: Fiat, perché tra poco commenteremo i dati auto, c'è poi stata la polemica, o meglio la nota di Fiat sulla rappresentanza sindacale, ne abbiamo detto prima. Il titolo in borsa. Sì, Fiat ha guadagnato l'1,7% appunto alle 18, verranno diffusi dati auto, questa mattina sono arrivati dati auto invece dalla Francia che hanno mostrato una Fiat in controtendenza, nel senso che il mercato francese ha perso il 10,9% mentre Fiat ha guadagnato nelle matricolazioni il 9,9%. Ha chiuso poi in territorio positivo anche l'azionista Exor, che ha guadagnato lo 0,62% mentre per metà seduta l'andamento era stato negativo. Ancora tra i titoli migliori e peggiori in assoluto, Mondo TV più 7,40%. In realtà qui c'è una notizia di mercato, non ne parliamo mai del titolo, quindi si può, prego. Sì, infatti il business tra l'altro è interessante, nel senso che Mondo TV ha annunciato di aver sottoscritto il primo accordo nella storia in Australia, cioè con il gruppo, con il primario gruppo televisivo nazionale australiano, per la trasmissione appunto nel paese sul digitale terrestre di una nuova serie televisiva. E la società ha precisato che è la prima volta che un programma di Mondo TV viene trasmesso in Australia su uno dei principali canali di TV per ragazzi. E questo il titolo. Poi molto bene anche AF più 10%, D-Mail più 6,70%, Telecom Italia anche sul risparmio più 6,5%, fronte opposto invece Screen Service Broadcasting meno 5,70%, Bastoggi meno 4%, Banca Popolare di Spoleto meno 3,40%, Arena meno 3%. Una nota però devo darla sul Monte dei Paschi, visto che c'è il nuovo presidente Antonella Mansi della fondazione. Il titolo. Il titolo, come il resto del settore bancario, ha chiuso in territorio positivo e ha guadagnato l'1,10%. E ancora volete... gli ascoltatori mi fanno notare che non ho commentato Saipem, vabbè, meno 0,65%, però è l'unico titolo sostanzialmente negativo, commentiamolo. Perdeva anche l'1% a un certo momento, prego. Sì, diciamo che si tratta di realizzi, il titolo aveva guadagnato la scorsa settimana, visto l'incremento dei prezzi del petrolio per i timori sull'intervento americano in Siria. Oggi il petrolio scende dello 0,84% e credo che sia stato appunto un motivo per... vendere quindi i titoli che avevano guadagnato molto nei giorni scorsi. Grazie a Livia Zancanè, Radio Cori, Sole 24 Ore. Grazie a voi. E arriviamo anche a Banca Marche e a quello che è successo nel fine settimana tra la Banca d'Italia, le Fiamme Gialle, la Procura, perché è un caso che seguimmo già quando esplose all'inizio. Alcuni vogliono capire sulle telecomunicazioni, ne abbiamo parlato a lungo venerdì, ripeto, quando un soggetto come Vodafone, ma non c'è solo Vodafone, perché giustamente veniva citato anche il colosso messicano me ne chiamo Vir, quando comunque un grosso come Vodafone acquisisce, ottiene 130 miliardi da una cessione, è chiaro che il ragionamento è che cosa fa di questi soldi, andrà a acquisire qualcosa, qualche società, ma la posta in gioco più alta, c'è chi scommette che ci possa essere dentro una scalata su Telecom Italia, però su questo poi bisognerà attendere e capire cosa succederà all'attuale azionariato di Telecom Italia stessa. Vabbè, poi c'è l'invito di un ascoltatore che mi dà del Mona e dice basta sparare cavolate, io un invito sempre valido, cercherò di fare il possibile, non so se con la premessa che lei ha fatto io riuscirò a eseguire il suo invito. Minuti di nuovo in diretta. Allora torna a gran richiesta, no mica tanto, perché ogni volta che viene qui parla di scandali, inchieste, cattiva gestione, Fabio Pavese del Sole 24 Ore. Buonasera Fabio. Buonasera a te, agli ascoltatori. Allora, con questa bella premessa andiamo a capire cosa è successo. La Procura della Repubblica di Ancona ha aperto un fascicolo di indagine su Banca Marche perché ha accumulato perdite per circa 800 milioni di euro in un anno. E hanno i PM delegato al nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza un'indagine ispettiva contabile a 360 gradi, quindi acquisendo documentazioni riguardanti il 2011-2012. Questo, tra l'altro, arriva poco dopo che lo scorso 30 agosto, cioè due giorni fa, 30 agosto, tre giorni fa, la Banca d'Italia ha messo in gestione provvisoria tutta la banca, quindi la commissariata, diciamo con un termine forse non così corretto. L'attuale dirigente della Banca Marche aveva presentato due esposti alla magistratura sulle posizioni dubbie di 16 clienti, ma la gestione provvisoria è arrivata dopo che il bilancio semestrale aveva visto una perdita di 232 milioni e rettifiche di crediti per 450 milioni, che non è un dettaglio. Rettificare un credito, adesso lo chiariamo, vuol dire che hai commesso un errore di valutazione, diciamo così. Nei mesi scorsi una delle tre fondazioni bancarie che controllano Banca Marche, mi riferisco alla Fondazione Carima, aveva proposto un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori delegati in carica fino al 31 dicembre 2011, in particolare l'ex direttore generale Massimo Bianconi. Allora, perché tra l'altro faccio notare una cosa, così mi incavolo subito, l'ultimo assegno incassato da Massimo Bianconi, direttore generale dal 2004 al settembre 2012, che voglio dire, con questi numeri non gli voglio dare la responsabilità, ma forse non risulterà come uno dei migliori manager bancari del pianeta, beh, si è preso 2 milioni e 300 mila euro e ne ha preso un altro 1 milione e mezzo, no, ne prendeva 1 milione e mezzo all'anno di stipendio e in questo modo ha preso anche la liquidazione. Ora io capisco, poi quando lui se n'è andato la Banca Marche si è trovata con 2 miliardi di crediti a rischio in più in un solo anno, 2 milioni di buona uscita contro 2 miliardi di perdite, mi sembra un buon modo per gestire una banca. Allora, che cosa preoccupa la Banca d'Italia, ma soprattutto dove si muovono i PM, Fabio? Ma i PM è stato un atto dovuto, perché lo stesso nuovo vertice aveva mandato due esposti alla procura dicendo qui abbiamo 16 grandi clienti su cui pensiamo siano stati fatti crediti, come dire, non in modo assolutamente integerrimo. Il problema è rilevato Bianconi, in effetti il solito paradosso è che i manager che creano disastri sono poi sempre ben remunerati, perché Bianconi si era dimesso addirittura nel 2011, si è dimesso per 3 settimane, la banca l'ha riassunto 3 settimane dopo. Fu un escamotage trovato per evitare il tetto agli stipendi di Banca d'Italia. Quindi c'è anche questo caso parossistico, cioè Bianconi si dimette, per sole 3 settimane viene riassunto per poter beneficiare dell'autostipendio. Ma c'è di più, se uno legge il verbale dell'assemblea, tu ricordavi prima che una delle fondazioni azioniste ha chiesto azioni di responsabilità, e anche in quella circostanza non sono stati in grado di votare l'azione di responsabilità, cioè il 51% degli azionisti ha detto no, non si fa nessuna azione di responsabilità. Allora, diciamo di capirci, perché uno può decidere di pagare il direttore generale quanto vuole, certo, per carità, però ci sono anche delle direttive della Banca d'Italia su questo, però è palese a tutti che qui non c'è solo la vicenda di Gresti, tu accumuli 2 miliardi di perdite, di crediti a rischio, perché mi concentro sui crediti a rischio, perché un direttore generale di una banca, se è veramente così bravo che becca sto stipendio, dovrebbe essere uno bravissimo anche a valutare, certo, a chi dare i soldi e a chi no, l'affidabilità del cliente, no? Con una sana e prudente gestione. Ora è ovvio che tu prendi questo po' di stipendio e tra l'altro si scopre che i crediti a rischio sono altissimi, perché le rettifiche operate vuol dire che tu hai preso soldi a Sebastiano Berisoni che pensavi essere affidabile, poi ti accorgi che è un mona, come diceva l'ascoltatore, e ti tocca rettificare perché dici, beh, quei soldi forse Berisoni non me li ridà più. Allora tutto questo rientra in quello che dovrebbe essere, che è il valore aggiunto, il valore in sé di un dirigente generale di una banca. Ma direi proprio di no. E tra l'altro l'aspetto che si vede in Banca Marche, ma in tutte le banche in difficoltà, quelle piccole sul territorio, oramai sono una dozzina le banche commissariate in tutta Italia, sono quasi tutte banche locali, è che la Banca Marche raccoglie denaro sul territorio, tra l'altro con questi conti deposito con interessi molto alti, però i soldi li impiega fuori dal territorio. Eccoci. Perché le posizioni a rischio riguardavano Vittorio Casale, che è un ex immobiliarista, amico di consorte, finito in galera e praticamente fallito con un gruppo immobiliare. Riguardavano il gruppo Ciccolella, che è un'impresa di fiori pugliese e che è indagato per frode sui fondi comunitari. E no, poi altre tre, la New Economy a Ciccolella. Esatto, altre tre o quattro situazioni, tutte in realtà concentrate su Roma o addirittura nel sud Italia. Quindi Bianconi cosa faceva? Ecco, raccontaci. Raccoglieva soldi sul territorio e però li impiegava fuori, soprattutto li concentrava, cioè lui aveva 4-5, chiamiamoli amici, o comunque persone a cui aveva, con cui aveva un rapporto speciale, e per queste persone il credito era paradossalmente illimitato, perché quando tu su 17 miliardi di impieghi alla clientela raggiungi 5 miliardi di crediti a rischio su quei 10-16 gruppi che la stessa nuova banca, il nuovo vertice ha denunciato alla procura, vuol dire che tu hai concentrato il rischio su pochi soggetti, non hai verificato se questi erano solvibili e chissà cosa è accaduto, nel senso che sembra un conflitto di interessi privati in atti pubblici. Allora, il problema però è un altro. Allora, Banca d'Italia arriva ora. Il problema qual è? È che la banca era stata sanzionata, cioè lo stesso Bianconi e l'intero CDA e anche i sindaci erano già stati sanzionati nel 2011 dalla Banca d'Italia per gestione, come dire, e qui poco arrivare, corretta. Perché c'è un principio, però la Banca d'Italia, con la sua funzione ispettiva di controllo, va anche a verificare la concentrazione del rischio. Certo. Voglio dire, la Banca Marche non può prestare l'80% dei suoi impieghi, su esempi che capiamo tutti, a Sebastiano Berisoni, perché dice no, anche se tu ritieni che Sebastiano Berisoni sia la persona più affidabile del mondo, certo, l'imprenditore con maggior successo, non il mono di cui sopra, però metti le uova in uno stesso paniere, non può, è troppo rischioso. Allora lì non c'è stato nessun intervento per dire, no, tu, cara Banca Marche, com'è che i soldi li raccogli sul territorio? E qui potremmo aprire un capitolo sul mondo bancario, perché giustamente dicono gli ascoltatori, ma come fa ad avere così tanti impieghi difficili e aver rettificato i crediti che le banche non prestano soldi? Non prestano soldi a voi, certo, ma ad alcuni soggetti Banca Marche li prestava, dico, ma al di là di, e quindi si capisce già l'operazione, a mio avviso, scorretta da un punto di vista della missione di una banca che si chiama Banca Marche, li raccogli nelle Marche. Dove? E riimpiegali nelle Marche con tutte le difficoltà che hanno gli imprenditori anche in quella regione. Ma per di più li prestavi a gente che, insomma, amici degli amici. Probabilmente il meccanismo era questo, tant'è che il nuovo vertice ha denunciato queste 16 operazioni che considera sospette. Ma il tema non è solo la risposta di Bianconi, cioè Bianconi è stato avvallato in tutti questi anni da un CDA, da un collegio sindacale, da uno stato di revisione dei conti, e nessuno di questi ha mai alzato un dito per dire, perché le carte le vedevano. Quando tu riunisci il consiglio di amministrazione e deliberi un credito, non è Bianconi da solo che decide, vero. Decide insieme agli amministratori, e quindi, voglio dire, denunciare a distanza di anni operazioni sospette dagli stessi soggetti che le hanno avvallate sembra un po' un gioco allo scaricabarile. Ovviamente Bianconi ha la responsabilità diretta, leva anche lui un po', però come al solito in queste circostanze si arriva sempre un po', come dico io, a babbo morto, cioè voglio dire, il danno era irrimediabile e si vedeva, nel senso che nel dicembre loro hanno fatto finalmente pulizia, però la dinamica degli impieghi che salivano così velocemente doveva insospettire, perché con il credit crunch noi sappiamo tutti che le banche hanno limitato il credito, Banca Marche andava a controcorrente, lo aumentava, il problema era capire dove poi impiegava questi soldi. Se, come dice Sebastiano, poi i soldi finivano a quattro amici e che i quattro sindaci erano persone in ovvia difficoltà. E insomma, qualcuno doveva alzare un grido d'allarme un po' prima che si arrivasse a ciò. Adesso la situazione qual è? È che la banca ha un core tier 1, cioè il patrimonio di vigilanza, al 4%. Sappiate che una banca deve avere almeno il 7-8%. Quindi è una banca che rischia di fallire, questo va detto. Banca d'Italia ha messo lì per 2 mesi 2 persone, si immagina che siano lì per controllare che le rettifiche siano state fatte in modo adeguato, perché voglio ricordare che già a fine dicembre, quando ci fu il primo buco da 500 milioni, vuol dire, cioè, che aver detto forse quei crediti non li avrò più indietro siano veramente corrette, eh sì, e non perché ci sia anche lì. Quello che fa paura su Banca Marche è che anche dopo la perdita di 200 milioni Banca Marche ha tuttora a bilancio il 24% dei crediti deteriorati e sono saliti del 15% nei primi 6 mesi del 2003, cioè la valanga dei crediti che si presume non torni non sta rallentando, sta addirittura aumentando. Per cui o li mettono 400 milioni di aumento di capitale e c'è una corata di imprenditori disponibile a farlo, però vorrei ricordare che già l'anno scorso ci fu un aumento di capitale di 200 milioni che è stato bruciato completamente. Allora, io ho un sogno, anzi ho un'immagine in questo momento, il sogno ce l'avrò dopo. L'immagine che ho è di tutti i piccoli imprenditori che in questi anni, marchigiani, si sono rivolti alla Banca Marche sentendosi dire: no, mi scusi, i crediti non ci sono. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere, sono un eroe, straordinario tutte le sere, sono un eroe, e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare con il mio superpotere, sono un eroe. A tutti questi eroi, perché sono piccoli imprenditori, medi imprenditori, artigiani, commercianti che combattono tutto il giorno e poi sentono dire magari da Banca Marche: no, mi scusi, i soldi non ci sono, perché aggiungo, io ci sono solo per gli amici. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Alle 18:08, ritorna a Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Sì, ce l'abbiamo anche noi un sogno, ecco perché ho caricato questa base. Abbiamo il sogno che già ricordavamo nella precedente ora, che insomma le banche che raccolgono sul territorio reinvestano sul territorio, che i crediti vengano concessi a chi ne ha bisogno, non agli amici degli amici. È chiaro che non mi riferisco a tutte le banche, però la vicenda Banca Marche è veramente un altro germinaio, con consigli di amministrazione che non vedevano, come scimmiette, collegi sindacali che non sentivano, revisori che non parlavano, e 2 miliardi di perdite non generate per prestiti fatti agli imprenditori o ai commercianti o agli artigiani marchigiani. C'è chi ci dice: dovreste occuparvi anche di Roman Zareschi, ma non so, mi sembra che qualcosa stia emergendo, vedremo. Anche lì ci sono parecchi crediti che alcune grandi banche vantano nei confronti del finanziere di origine polacca Roman Zareschi. Spero che tutte le banche abbiano le garanzie, che tutte le banche abbiano le garanzie chieste a Zareschi, nel caso che la tassara poi non versi in ottime acque. Spero che tutte le banche ce le abbiano, tutte, anche perché sono grosse. E poi c'è un altro sogno con cui iniziamo questa settimana, il sogno di non dover parlare più ogni volta che c'è una tensione internazionale, per carità quella della Siria è una tensione importante, di nuovi record nel prezzo della benzina, 4 rincari da quando è iniziata la tensione sulla Siria, che tra l'altro adesso si è anche un po', lo vedremo, si è un po' affievolita, nessuno però si azzarda a fare previsioni, ma 4 rincari mi sembrano un po' tanti, anche perché il petrolio nel frattempo è tornato a $107 al barile, quindi la fiammata a 110 non c'è più, però anche questo resta un sogno e mo vi spiego perché. Perché l'Unione Petrolifera Italiana, che abbiamo chiesto di avere ospite, ma non ha potuto, ha detto: gli allarmi sull'andamento del prezzo dei carburanti sono del tutto infondati, non sono rappresentativi dei prezzi praticati a livello nazionale, che sono ben lontani dalla soglia dei 2 euro al litro di cui molto si è parlato in questi giorni. sarà, però qui ci sono due polemiche. Una che comunque è una polemica corretta, a mio avviso, ha riguardato una settimana fa i famosi cartelloni elettronici con i prezzi dei carburanti, i cosiddetti benza cartelloni, ve li ricordate? Dovevano essere il modo che avrebbe permesso a noi automobilisti di entrare in autostrada e comparare, mettere in concorrenza i distributori segnalando il prezzo praticato alla pompa, sia col fai da te che invece col servizio, dalle varie compagnie petrolifere. Che è successo? È che sono spenti. Sono spenti oppure mancano i prezzi, non pervenuto. Cioè nel 2013 c'è una tale velocità del mondo delle compagnie energetiche petrolifere nell'adeguare i prezzi anche su una crisi come quella siriana che è appena iniziata, 4 rincari, eppure non si riesce a comunicare il prezzo della benzina alla pompa sulla rete autostradale, lì non è pervenuto. Uno dovrebbe rispondere così anche quando fa il pieno, non è pervenuto, il portafoglio non è pervenuto, ma stiamo scherzando veramente. Nel tratto tra Milano e Brescia, in 100 km, c'è solo un cartellone, un pannello che funziona. Se funzionassero, stima altro consumo, si potrebbe risparmiare il 5% sul prezzo della benzina e il 4% su quello del gasolio. Voi direte poca roba, beh mica tanto, 6.400.000 euro complessivamente all'anno. E poi la polemica di oggi, perché l'associazione dei consumatori Codacons ha chiesto ai vari cittadini automobilisti di fotografare i prezzi praticati. Non è una cattiva idea, visto che tutti quanti hanno uno smartphone o un telefonino normale che è una macchina fotografica, di fotografare i prezzi praticati realmente alla pompa, al di là di quelli che vengono consigliati dalle compagnie petrolifere. E allora vediamo un po', 2 euro in vari punti del paese, tra cui Milano per la benzina, il gasolio invece il prezzo più elevato nei pressi di Rovereto, il diesel va a 1,907 euro, e poi sono messi a fotografare anche i prezzi fuori dall'Italia, in Spagna e in Austria 1,40 euro al litro o 1,30 euro se si utilizza il gasolio. Di questo vorrei parlare nel momento in cui tra l'altro escono anche i dati sulle matricolazioni auto. Allora ringrazio in primo luogo il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, buonasera. Buonasera, grazie a voi. E poi grazie invece anche a Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor. Buonasera Gianprimo. Buonasera. Ti chiederò buonasera, però anche un commento su questo, perché non è che possiamo fare solo le immatricolazioni. Intanto però dici, visto che sono appena uscite, come sono andate le immatricolazioni nel mese di agosto in Italia, che viene da praticamente un anno in cui ha fatto meno 17 a gennaio, meno 5 a marzo, meno 8 a maggio, meno 17 a gennaio, meno 17 a febbraio, meno 5 a marzo, meno 10 ad aprile, meno 8 a maggio, meno 5 a giugno, meno 2% al mercato auto a luglio, e ad agosto? Meno 6,56. Quindi anche tra tutti i sogni che non sono realizzati c'è anche quello che finalmente finisce questa sequela di dati negativi sul mercato dell'auto. Invece no. Agosto abbiamo un ulteriore calo, non particolarmente accentuato, ma comunque il momento della, diciamo, dell'inversione di tendenza è ancora una volta rimandato. Il gruppo Fiat, che oggi ha fatto parlare di sé per questa lettera sul fronte sindacale, ricordo la notizia che abbiamo commentato in apertura, perché Fiat ha fatto sapere che o vi sarà una legge sulla rappresentanza e sull'esigibilità dei contratti, o senza una legge sulla rappresentanza, che questa è la condicio sine qua non, la condizione senza la quale non vi sarà la continuità stessa dell'impegno industriale di Fiat in Italia. Ma questo è il fronte sindacale. Il fronte invece industriale, cioè le immatricolazioni Fiat ad agosto. Beh, le immatricolazioni Fiat, gruppo Fiat, calano leggermente meno del mercato, per cui Fiat mantiene la quota di mercato, però all'interno del gruppo ci sono andamenti differenziati per le diverse marche, mentre Fiat, il marchio Fiat, sostanzialmente si attesta sui livelli dell'anno precedente, il marchio Lancia cala del 13,66 e il marchio Alfa Romeo addirittura del 34,98, quindi un andamento fortemente differenziato fra i marchi del gruppo Fiat. Allora, vedo alcuni ascoltatori, così entriamo anche nel tema di Rienzi, che segnalano prezzi sopra i 2 euro. altri invece ampiamente sotto, a 1,75 la verde, vedo al litro a Verona, ma a me questa iniziativa, devo dirla tutta, 2,134 a Rovigo, mi dicono, a me questa iniziativa piace tantissimo. I have a dream that one day on the red sons of former slaves and the sons of former slaves. Allora, presidente del Codacons Carlo Rienzi, che cosa è venuto in mente? Di chiedere agli automobilisti di fare foto e mandarvele, primo, e che cosa risponde anche all'Unione Petrolifera, che dice, guardate, che insomma noi non risulta assolutamente, siamo ben lontani dalla soglia di 2 euro e comunque in Italia quello che pesa è il carico fiscale. Prego. Ma la risposta all'Unione Petrolifera sta nella nostra iniziativa, proprio perché dicono sempre che diciamo balle. Abbiamo detto ai consumatori, a questo punto mandate le fotografie, e io non capisco come possono continuare a dire che sono balle quando abbiamo, e domani metteremo sul sito, tutte le fotografie. Non capisco perché gli abitanti di Rovigo o di Milano debbano essere più tartassati o più stupidi degli altri, per cui quando arrivano alla pompa trovano la benzina a più di 2 euro. Insomma, ma si può capire questo prezzo come viene determinato? Cioè, noi lo sappiamo. In realtà viene legato alla speculazione. Perché questo è successo in questi giorni? Perché c'è il controesodo. Vi ricordate quando c'è stato l'esodo? Un'altra volta stessa questione. Perché più la gente cammina, poverini, tornano dalle vacanze già afflitti che non hanno più un euro, più questi fanno la speculazione. E anche per i cartelloni, sono boicottati dai benzinai, i comuni non fanno le sanzioni, non fanno uno straccio di legge, ne stanno a fare tante, in tutti questi grandi decreti del fare, che ponga delle sanzioni, degli obblighi, perlomeno di informare, perché se io so che in un quartiere c'è una benzinaia dove costa di meno, vado lì, se io so che su un'autostrada c'è una benzina dove posso pagare di meno, vado lì, o vado dal low cost se mi dicono dove sta il low cost, invece niente, nemmeno questo si riesce a ottenere. E allora ben vengano le fotografie, ben venga la class action che noi abbiamo in corso contro i petrolieri per questo imbroglio degli aumenti speculativi e non solo, e vediamo che cosa succede. Allora, su questo va detto per precisione che c'è storicamente e strutturalmente un problema in questo paese su un numero di pompe di benzina. Non voglio riaprire la polemica con i gestori di carburante, l'abbiamo avuti ospite decine di volte, però da noi ci sono 24.000 pompe di benzina, in Gran Bretagna 9.000, in Francia 15.000, in Germania 14.000, in Spagna 8.500. So benissimo l'obiezione dei gestori che dicono, però attenzione, in questo modo poi vuol dire fare i chilometri per andare a trovare la benzina. Dall'altra parte si dice, quando ci sono troppe pompe di benzina e troppi dipendenti, i costi si caricano anche lì, ribattono gli operatori che non è vero, che i costi loro sono solo marginali. Però insomma qui hanno tutti ragione, come spesso capita in questo paese, perché, e lei fa bene a ricordare come forse più il controesodo che la Siria abbia creato questa tensione. Ma Gianprimo Quagliano, visto che l'iniziativa poi riguarderà anche e riguarda anche agli altri paesi europei, ma in effetti insomma, al di là di come uno la pensi, io ammetto che 12 anni che conduco questo programma avrò avuto ospite il presidente dell'Unione Petrolifera almeno 30 volte. Io, al di là del sapere che il 70% sono accise IVA, il 30% è la materia prima, io non ho mai capito poi perché di tali differenze e soprattutto di una tale sensibilità verso l'alto quando c'è la prima crisi, dovunque è molto più vischioso verso il basso. Ma sono io malizioso? Sì, sei un po' malizioso, ma fino a un certo punto, perché i fenomeni speculativi che dichiara Codacons sono documentati con foto e quindi sono assolutamente innegabili. C'è però, andando ad analizzare i dati, emerge con estrema chiarezza che effettivamente, al di là di fenomeni speculativi che possono riguardare tutto il settore o soltanto alcuni soggetti, effettivamente la colpa del caro carburante in Italia è essenzialmente del fisco, perché se noi prendiamo gli ultimi dati statistici resi noti, che si riferiscono a luglio, ma poi la situazione di oggi non dovrebbe essere sostanzialmente diversa, il prezzo della benzina in Italia è più alto della media europea di 25 centesimi. Di questi 25 centesimi, 23 sono in più di tasse e circa 2 sono in più di prezzi industriali rispetto alla media europea. Quindi, senza negare che vi siano fenomeni speculativi, però il primo speculatore sulla benzina è lo Stato, che carica la benzina e il gasolio di un onere veramente assurdo che non si riscontri in nessun altro paese. Ecco, allora, Carlo Rienzi, adesso non voglio difendere le compagnie petrolifere, però insomma, visto che l'Unione Petrolifera non è potuta intervenire, lo faccio. Non è che vi stiate occupando, cioè, come il famoso dito puntato alla luna, uno guarda il dito e non la luna, cioè che vi state occupando di una cosa marginale, quando poi il vero carico, la vera differenza, la vera mazzata agli automobilisti arriva, come abbiamo raccontato per anni, da accise ancora per la guerra in Abissinia, per la crisi di Suez, per il terremoto del Belice, vado a memoria, ma ce ne sono mai levate, perché le accise vengono messe, anche recentemente, e mai levate. E cioè che la polemica sia solo una polemica così verso le compagnie petrolifere, perché crea consenso, perché sono i petrolieri sono cattivi, ma in realtà non sia lì la ciccia. Rienzi? E sicuramente lo Stato è complice di questa speculazione, perché tra l'altro non sterilizza accise ed IVA per l'aumento, perché ogni volta che i petrolieri aumentano lo Stato incassa di più, perciò sta zitto, perché è complice. Ma questo non c'entra con il prezzo base, che comunque in Europa noi abbiamo il più alto di tutti, e la ragione è una molto seria su cui stanno indagando adesso le procure di Roma e di Milano, ed è che i contratti che fanno le compagnie petrolifere sono contratti che sono fatti in questo modo: loro comprano con le loro filiali estere a quattro soldi il greggio sulle navi in Nigeria, dove sia. Poi che cosa fanno? Lo rivendono al prezzo del Brent di Londra alle loro filiali europee, per cui noi pensiamo che il prezzo giusto sia quello del prezzo del Brent di Londra. È una divaricazione tra il prezzo effettivo di acquisto e il prezzo del Brent di Londra, che viene mantenuto artatamente a quel livello alto, ed è questo il punto nodale storico dei paesi europei, su cui finalmente qualcuno sta indagando, e vedremo cosa esce fuori. Lo sapete che i contratti di acquisto del petrolio all'estero sono segreti come i piani internazionali di attacco alla Siria? Sì, ce ne siamo occupati a suo tempo. Però è lì il punto fondamentale. Ecco perché noi facciamo la nostra battaglia soprattutto con i petrolieri. Se non altro, le accise lo Stato li prende e teoricamente dovrebbe poi ridarle al cittadino, sì, in qualche modo, sotto forma di servizi, di servizi sociali, di welfare, eccetera. Comunque, i petrolieri invece se li mettono in tasca i soldi, e li mettono nei bilanci, li vai a trovare, se li cerchi, nei bilanci delle loro filiali estere e straniere. Questo è il cardine del problema. Allora, intanto io ripeto, secondo me l'iniziativa di un cittadino che fotografa va bene, non c'è nessuno, alcuni scrivono spionaggio, lagogna, ma no, non mi sembra proprio, anzi segnalare, dovrebbe farlo forse lo Stato, qualche altro ente, segnalare, una ascoltatrice mi ha scritto che con l'app del telefonino si possono vedere i prezzi, benissimo, insomma, nel 2013 uno dovrebbe essere anche messo in condizione di sapere dove, vera concorrenza. Costa più, costa meno. In un minuto, Gianprimo Quagliano, mi dici invece, tornando alle immatricolazioni, gli altri gruppi, oltre a Fiat? C'è qualcuno che è andato abbastanza bene, nonostante la situazione generale del mercato. Ad esempio, Renault ha guadagnato il 29, quasi 30%, Dacia il 21,96%, Hyundai il 13%, Mercedes il 12%, Citroën l'11%, BMW il 3,5%, mentre invece tutti gli altri sono in territorio negativo, con Audi a 5, meno 5,48, Lancia Chrysler meno 3,66, come avevamo detto prima, Ford meno 17, Volkswagen meno 23, Opel meno 25, Peugeot meno 28. Questa in rapidissima sintesi. Quindi un quadro in chiaro-oscuro, ma lo scuro prevale sul chiaro. Vabbè, e comunque Fiat ha avuto un calo leggermente inferiore rispetto alla media del mercato, meno 6,5% mercato, meno 6% Fiat. Grazie anche a Gianprimo Quagliano e grazie chiaramente anche al presidente del Codo con Carlo Rienzi. I have a dream that one day on the red hills of Troy, sons of former slaves and the sons of former slaves, E a proposito di sogni, c'è chi dice anch'io ho un sogno, Barisoni fuori dalla conduzione di Focus Economia, ognuno si tenga i sogni che può, per tutti gli altri invece l'appuntamento è a domani, dalle 17 in poi per un'altra puntata di Focus Economia. Intanto, da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.